scende il sole oltre l'orizzonte, rosso fuoco il mare e il giorno al suo tramonto, immagini del tempo. Fisso l'occhio fermarsi sul tatario, va indietro la memoria, forse in un diario, ricordi di una storia. Sentire nel passato come l'hai vissuta, che cosa ne hai avuto, di storie già finite, più avanti ripetute, forse mai capite. Andare avanti e poi ritrovarsi ancora, sentirci ancora noi. E il tempo della vita, durata di un viaggio, rimasto nei ricordi. Batte l'onda, disegna le scogliere, un volo di gabbiani tra il mare e le bufere, continuano la vita. Come il vento spegnendo le candele, va veloce il tempo, ammaina le vele, la fine di una vita. Nel tempo la misura, durata di un viaggio, si nota dall'usura. Si avvertono con gli anni, passati ad invecchiare, l'evento degli affanni. Vogliamo insieme al vento, sentire ogni momento, consegnando al tempo ciò che la memoria o è niente di una vita vissuta senza storia. Dentro noi attimi trovati, darli al mondo, poi nel tempo la memoria racconterà di noi, vissuti nella storia, oltre gli anni e poi, superando il tempo, saremo in vita noi, saremo in vita noi. saremo in vita noi.